L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, quello in cui la riduzione dei rifiuti è già un dato di fatto e non si deve celebrare alcuna campagna europea per la riduzione dei rifiuti. Ora, siccome un pianeta così ancora non c'è, allora diamo il nostro piccolo contributo a questa importante iniziativa con alcune piccole spigolature dal mondo dei rifiuti. Non prima però di avervi ricordato che, come dicevamo all'inizio, oggi entriamo nella terza edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che è una campagna che nasce all'interno del programma Life Più della Commissione Europea, con l'obiettivo primario di sensibilizzare tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini, sulla necessità di prevenire i rifiuti. Sono quasi 900 le azioni con cui partecipa l'Italia a questo evento e, se avete voglia di dare un'occhiata, c'è il sito menorifiuti.org. E a questo punto possiamo venire alle nostre spigolature. Molte, vedrete, sono a cavallo tra Italia e il resto del mondo, nel bene o nel male. Ad esempio, abbiamo raggiunto Antonio Foresti, amministratore delegato di Geco Plastic, azienda di battipaglia, sul pulmino che in aeroporto lo stava portando a un aereo per l'Australia. La comunicazione che sentirete quindi è disturbata proprio per questo motivo. Foresti andava in Australia per lavoro e immaginiamo con progetti e presentazioni della sua azienda, che è specializzata in contenitori in materiale plastico. Da questa esperienza la Geco Plastic ha sviluppato un cassonetto per l'immondizia in plastica riciclata, quindi più leggero e più ecologico degli altri, ovviamente. Ma i tempi per la crisi e anche per la mentalità, purtroppo, non sono facili nel nostro paese. Continuiamo a lavorare in Italia e supportiamo la nostra clientela fin quando c'è possibile, però ovviamente siamo quasi costretti, insomma, ad andare all'estero per poter, come si suol dire, sbarcare lunario. E l'assurdo è che uno dei principali problemi per le amministrazioni che potrebbero in teoria acquistare questi cassonetti sembra essere il colore della plastica riciclata, ovvero nero. Tanto che la Geco Plastic ha deciso di nasconderlo sotto un guscio colorato per rendere più allettante il contenitore. È vero che anche l'occhio vuole la sua parte, ma insomma. A dire il vero però, a quanto pare in Italia, oltre a quello del colore, c'è un altro problema. Sembra non piacere proprio l'idea del riciclato, visto che spesso i bandi per l'acquisto di questo genere di prodotti da parte delle amministrazioni comunali specificano che devono essere realizzati in plastica vergine. E la differenza però alla fine non è da poco, né per le tasche dei comuni e quindi dei cittadini, né per l'ambiente. E così Foresti e la Geco Plastic nel frattempo aprono impianti all'estero, dall'Austria all'Argentina, e producono e vendono alla grande. Tutto rigorosamente italiano, dalla sia dai macchinari che dagli stampi, i processi sono i nostri, gli studi e, se vogliamo, la progettazione è nostra. Tra l'altro noi esportiamo tecnologia, perché nei nostri stabilimenti esteri in realtà possono godere dei nostri prodotti con le nostre tecnologie, quindi su questo siamo molto orgogliosi, insomma, perché ancora una volta l'italianità riusciamo a renderla, se vogliamo, produttiva, ahimè più all'estero che in Italia, però insomma siamo qui e continuiamo a resistere. Dal cassonetto al cestino per la prossima spigolatura. Si chiama Big Belly Solar, il cestino compattatore alimentato a energia solare prodotto negli Stati Uniti e ora commercializzato in Italia da Eurven, anche se alcune imprese private o comuni l'hanno comprato attraverso altri importatori in passato. In ogni caso, se per curiosità o per mestiere volete cercare il Big Belly Solar su internet, occhio a che il sito parli italiano, altrimenti di importatore in importatore i costi lievitano. Carlo Alberto Baesso, general manager di Eurven, sprizza entusiasmo nel descrivere cosa sa fare questo cestino compattatore solare. Riducendo il volume di questi rifiuti, o ho meno cestini da gestire, o ho meno svuotamenti da fare. È semplicissimo. Il camion o il furgone o l'uomo delle pulizie che deve fare 10 viaggi, a questo punto ne fa 3. Ha risparmiato tempo, soldi, denaro, benzina, occupano meno volume, quindi anche il volume di stoccaggio di questi rifiuti è inferiore, ma soprattutto veramente il costo è la movimentazione di questi rifiuti, cioè il trasporto è quello che incide moltissimo sui costi. Dopo, tecnologico perché? Perché questo funziona con l'energia solare, col sole, con l'energia fotovoltaica, non ha bisogno di corrente, non produce CO2. Ultima cosa, ma non meno importante, è che è intelligente perché? Perché questi bidoni si parlano tra di loro, cioè dicono il bidone numero 1 parla col bidone numero, non so, 15, gli dice lo sai che io sono pieno, e il bidone 15 guarda io sono ancora a metà, e fanno col gestore dei rifiuti che deve andarli a svuotare, fanno un percorso tipo un navigatore satellitare che dice guarda prima passa in piazza Cavour, poi in piazza Roma, poi in via Repubblica, e fai questo giro perché questo è pieno, questo è vuoto, questo non serve passare. Ecco, dice Baesso, una macchina così può dare grandi soddisfazioni se abbinata, come già fatto in alcune imprese private, a un sistema incentivante, e cioè se ad ogni rifiuto differenziato inserito e compattato quindi dal cestone, la macchina regala qualcosa a chi ha portato il rifiuto. Il comune però non ha i soldi per fare queste cose, quindi noi abbiamo trovato la soluzione anche su questo. Diciamo, io ti do gratuitamente i sistemi al comune. Il comune dice benissimo, ma come fai a ripagarteli? Io troverò un sistema di marketing che si tratta essenzialmente che io dovrò dare qualcosa al cittadino per invogliarlo a fare questa raccolta differenziata e a venire in questo cassonetto. Darò qualcosa io. Quelli che vogliono partecipare a questo progetto, che sia, non so, il ristorante, il negozio di abbigliamento, il negozio di scarpe, la tabaccheria, metteranno loro dei punti o degli sconti o dei premi che daranno ai cittadini. Loro pagheranno questo sistema, tutti insieme hanno una piccola percentuale del costo di questo progetto, quindi il comune avrà un progetto nuovo, un sistema nuovo, sarà incentivato e non l'ha pagato. E così facendo la tassa sui rifiuti, secondo Baesso, potrà finalmente diminuire. Il comune comunque avrà un risparmio di costi. Facciamo 100, il comune spende 100. Comunque facciamo che invece di spendere 100 spende 80 con questi nuovi sistemi. Okay? È logico che il comune dirà non posso fare 80 perché anch'io comunque prendo meno. La cosa giusta è dire facciamo una via di mezzo. Prima comunque spendevi 100, adesso spendi 80, fai che 10 vadano comunque ai cittadini come sconto, hai comunque guadagnato 10. Noi chiamiamo questo sistema, come lo definiscono gli americani, win-win, cioè tutti e due quelli che fanno questo progetto ci guadagnano, non c'è uno che guadagna, uno che spende, tutti e due hanno un guadagno, carta alla mano, io ti dimostro con i numeri quanto risparmiano, ma non dicendo guardate comprate le mie macchine che poi risparmiate, no, facciamo così, mi date una percentuale del vostro risparmio, mi pago le macchine, guadagno anche di più. Se qualche comune all'ascolto dovesse intraprendere o seguire questa via, ci faccia il favore di tenerci al corrente perché siamo molto incuriositi. Vi ricordo l'altropianeta@radio24.it per scriverci. Per chi ha dimestichezza con le apps, le applications di smartphone e tablet, ecco il servizio messo a punto da Era, multi-utility che serve gran parte dell'Emilia-Romagna. Si chiama il Rifiutologo, è un'application, quindi un supporto in grado di aiutare a smistare i rifiuti per iPad e iPhone e ora anche per Android. Si scarica, si imposta la città, deve essere una di quelle servite da Era, e si sottopone la propria questione. Giuseppe Gagliano è il direttore relazioni esterne di Era. Questo dovrebbe aiutarci molto, anche noi aziende che gestiamo, per avere una qualità della raccolta molto migliore, perché oramai non è tanto la quantità, ma la qualità sulla quale tutti quanti noi puntiamo. Quindi le persone che hanno dei dubbi possono col loro telefonino darsi una risposta, diciamo, e sapere come devono comportarsi. Questo ovviamente va a vantaggio di tutti. Le indicazioni valgono, purtroppo per noi che non abitiamo lì, solo per la regione Emilia-Romagna, però. Sì, noi l'abbiamo fatto. Insomma, nella vostra area di competenza. Esatto, pensando ai nostri clienti, dai quali tra l'altro abbiamo avuto tantissime segnalazioni di oggetti non presenti nella prima versione del rifiutologo, tant'è che a pochi giorni dal lancio della prima versione ne abbiamo già lanciato una seconda e chissà magari anche una terza tra poco, integrata con molti prodotti che all'inizio non avevamo considerato. Quindi diciamo che è un modo veramente interattivo per gestire la raccolta differenziata. Le stesse informazioni si trovano anche sul sito di ERA per chi non avesse né smartphone né tablet. L'idea è stata nostra e poi tecnicamente l'abbiamo fatto sviluppare a Officine Digitali, che è la nostra agenzia. Un'idea originale, mi faccia dire, anche se banale, però provare a mettere insieme, elencare tutti quanti le categorie che vanno dai capelli ai tappi di sughero alla linguetta dello yogurt, devo dire che già oltre 6.000 persone hanno scaricato l'applicazione, quindi diciamo ha avuto un certo successo. Some people call me the space cowboy. Sempre in tema di telefoni, ma questa volta di giochi, segnaliamo i giochi messi a punto dal Comune di Torino e da Amiat per la Fiera delle Buone Pratiche in Città, che sarà domenica prossima, il 27 di novembre, al termine della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, quindi. Sono 3 giochini semplici e passatempo, ma anche educativi, per imparare a riciclare, risparmiare e riusare. Si può già giocare online sul sito di Torino Smart City e sul telefonino, questa volta per piattaforma Android, poi più avanti arriverà anche sull'Apple Store. Chi si registra e si classifica riceverà un premio di partecipazione che potrà ritirare domenica 27 novembre alla Fiera delle Buone Pratiche in Piazza Madama Cristina a Torino. Ora che coi rifiuti abbiamo giocato, non dimentichiamoci però che i rifiuti esistono e che da qualche parte sono stati messi in tutti questi anni. Anche nella migliore delle ipotesi, e cioè che siano stati smaltiti con tutte le carte in regola, che ne facciamo delle discariche dismesse? Un aiuto lo possono dare, e lo faranno volentieri, anche gli architetti del paesaggio, che anche se hanno questo nome romantico che evoca i profili collinari al tramonto, si occupano molto delle nostre città e della qualità della nostra vita in città. Da ieri e fino a domani gli architetti del paesaggio sono riuniti in un congresso storico a San Marino, a 60 anni dalla fondazione dell'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, di cui è presidente Paolo Villa, che dice di essere felice quando gli capita di poter lavorare per riqualificare aree sfortunate. Questo lavoro è un lavoro che non esercita da solo il paesaggista, ma sul quale c'è una serie di collaborazioni anche con esperti di altri settori. Mi fa qualche esempio di intervento fatto da paesaggisti appunto in Italia su aree così sfortunate? Le faccio un esempio bellissimo, grandioso, che è per esempio il Parco Nord Milano. Dagli anni 80, un parco pubblico, le faccio un esempio che possono vedere tutti, perché alla fine pochi sanno che dentro quel parco ci sono le zone che erano concepite per accogliere le scorie degli altiforni della Breda, ma adesso la gente può vedere, toccare con mano e calpestare con piede, con ruota di bicicletta, decine e decine di chilometri di strade e migliaia e migliaia di alberi in 400 ettari di parchi stupendi che hanno cambiato il destino di un'area della città. E questo è frutto del lavoro di paesaggisti? È un frutto, anche. Certo, è un lavoro di concerto in cui i paesaggisti hanno avuto un ruolo fondamentale soprattutto nella visione. Presidente, le faccio un'ultima domanda. Lei ha fatto l'esempio di Milano, ma insomma possiamo fare esempi anche di altre città, di Bologna e così via, ma questo implica anche una collaborazione con le amministrazioni locali. Collaborazione che lei definirebbe come? Facile, difficile, impossibile in certi periodi? Non lo so, mi dica lei. Noi siamo qua a San Marino, per esempio, grazie alla collaborazione con lo Stato di San Marino, è un'amministrazione locale in fondo, quindi diciamo che in alcuni ambiti è possibile ed è auspicabile questa collaborazione. Quando si entra

adattare alla scuola una programmazione che sia diciamo utile, anche adattandosi a diversi livelli di età, insomma, dalla scuola materna alla scuola elementare. Senta, lei che ha un osservatorio sicuramente privilegiato, ci può dire come sono i bambini di oggi? Sono attenti all'ambiente, alla tutela proprio della terra stessa? Devo dire che secondo me la sensibilizzazione, il lavoro che si sta facendo su tanti fronti sta portando dei risultati, cioè sicuramente una generazione di bambini è più attenta di quella precedente, sicuramente i giovani sono più attenti di noi adulti. Noi abbiamo diciamo anche verificato attraverso anche delle ricerche ad hoc l'importanza dell'impatto di quanto i bambini si facciano poi promotori di portare questi concetti e queste attenzioni all'interno della famiglia. Quindi i bambini sicuramente diciamo hanno delle sensibilità, delle capacità di comprendere il tema molto, molto positive, hanno anche una capacità di essere promotori nella società di comportamenti corretti, e questo non va sottovalutato, anzi secondo me dobbiamo lasciarci portare dai bambini verso orizzonti diversi, insomma. Grazie a Cristina Carpinelli per l'intervista, e ora è il momento di Articolo 9, la nostra rubrica intitolata come l'articolo della Costituzione che dice: la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, oggi abbiamo in collegamento con noi Fulco Pratesi, che è il presidente onorario del WWF Italia. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Ecco, so che in questi giorni voi siete molto attivi perché state lavorando a un importante convegno che si terrà a Roma giovedì 24 novembre, dedicato all'Italia diversa. Il titolo è molto affascinante, è la storia dell'ambientalismo in Italia. Ecco, presidente Pratesi, brevemente, che cos'è stata questa storia dell'ambientalismo italiano? Beh, impegno di tanti volontari legati in associazioni private, diciamo l'Italia Nostra, al WWF, alla LIPU, al FAI, a Lega Ambiente, che hanno praticamente dato un segnale di recupero forte di un paese che dal punto di vista ecologico aveva molte difficoltà. Basta pensare al 1966, la tremenda alluvione di Firenze e Venezia, che ha dato un po' il via anche alla nascita, per esempio, del WWF. Certo, quindi sono circa 50 anni in cui l'ambientalismo è un ambientalismo militante. In questi anni siete stati molto presenti e avete anche conseguito importanti risultati. Ecco, me ne vuole ricordare qualcuno, presidente? Ma io penso che l'Italia, tra tanti vantaggi e tanti svantaggi, possa almeno essere orgogliosa di due grosse cose. Tanto aver portato la superficie di aree protette dal 0,6 degli anni 60 al 10% e più degli anni attuali, cioè aver protetto almeno il 10% del territorio e aver portato la superficie forestale dal 20 al 30% in questi ultimi anni, e credo questi siano dei successi che pochi altri paesi possono vantare. Certo, e quali sarebbero i luoghi, diciamo, se lei dovesse indicare orgogliosamente i luoghi che avete salvato con questa azione, quali sono in Italia e quelli che le vengono in mente naturalmente? Beh, io penso che i 24 parchi nazionali partiti da zero oggi sono qualcosa di veramente reale e interessante e importante, partendo dal Parco Nazionale d'Abruzzo, del Gran Paradiso, Stelvio e Circeo degli anni 30, si è arrivati oggi a avere 24 parchi che salvano dai Dolomiti fino all'Etna e altre parti veramente, veramente sensazionali di questo meraviglioso paese. Ecco, quando dite salvare questi parchi, che cosa significa concretamente? Significa sottrarli alle aggressioni continue di speculazione edilizia, abusivismo, caccia, bracconaggio, prelievo di acqua eccessiva dai fiumi, taglio di boschi incontrollato, tutto quello che possono essere le aggressioni che purtroppo, di cui purtroppo sono vittime gli ambienti naturali, bene o male sono stati in queste aree, almeno in questo 10% e più, sono state bloccate, e i nostri figli, i nostri nipoti vedranno queste aree così come noi le abbiamo viste e godute. Insomma, un buon successo quindi. Ecco, e nel convegno romano non vi limiterete solo a parlare della storia, dei risultati recenti, ma ho visto che lancerete anche nuove prospettive. Ecco, quali sono le nuove prospettive dell'ambientalismo in Italia? Beh, le prospettive sono diverse, molte, tanto cercare di bloccare lo sperpero di superficie di suolo, cioè siamo il paese che sta divorando più suolo di fronte a un aumento della popolazione minimo e un aumento enorme del consumo di cemento, questa è una delle prime cose, poi aumentare quanto è possibile fino ad arrivare al 20% le aree protette nel nostro paese, molte ancora non sono oggi difese da una legge statale o regionale, per cui c'è tanto da fare, ma migliorare anche la sensibilità soprattutto dei giovani, l'educazione e la ricerca scientifica in queste aree che devono diventare poi dei luoghi di impulso per una politica che parte dal basso per la tutela ambientale. Ecco, quali saranno una di queste aree che potremo tra poco vedere tutelate come le altre fin qui? La più grande battaglia è quella per il parco del Gennargentu, 110.000 ettari meravigliosi in Sardegna che purtroppo ancora non si è riusciti a realizzare ove non è possibile realizzare ancora un parco nazionale, che andrebbe dalla costa meravigliosa orientale sarda fino alle cime del Gennargentu. Sarebbe un posto meraviglioso che praticamente è il più bello del Mediterraneo e anche dell'Europa. Allora Presidente, io le faccio tanti auguri per il convegno L'Italia Diversa che si terrà a Roma giovedì 24 novembre alla Camera dei Deputati. Buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. E a tutti gli ascoltatori un cordiale saluto. Ed è tutto anche per questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordo, per riascoltarci c'è il sito internet nella pagina del programma L'Altro Pianeta. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla settimana prossima.